Allora, prima, dopo le, devo dire, affascinanti parole di Germana, purtroppo ritorno leggermente alla filologia e do dei dati brevissimi per quanto riguarda la Nuova Atlantide di Bacon, che fu pubblicata per la prima volta nel 1627, quindi siamo più o meno, diciamo, è uscita postuma dopo la morte di Bacon. In realtà è un postumo, per modo di dire, perché è uscita pochi mesi dopo la morte di Bacon, ma era già pronta e già approvata. Ma come uscita, lo vedremo subito, è uscita come opera, favola non completa, insieme a un'opera di filosofia, di storia della filosofia naturale, e cioè la Silva Silvarum, un insieme di 1000 esperimenti, fiat experimentum, eccetera, che dovevano, secondo Francis Bacon, coprire grandissima parte del mondo naturale. Premessa questa, appunto, c'è la Nuova Atlantide. Quindi suscitò subito un enorme interesse, infatti fu ristampata fra il 27 e il 1685 ben 13 volte in Inghilterra, fu tradotta quasi immediatamente in francese, in molte lingue vernacolari, e poi comunque divenne importantissima e estremamente diffusa dopo la traduzione latina che non fu fatta da Bacon, ne abbiamo soltanto un frammento, del resto tutte le opere di Bacon erano sempre, le traduzioni latine erano sempre riviste riga per riga da Bacon, ma erano fatte da un'officina di persone, perché voglio dire, era anche lui era Lord Cancelliere, anche se negli ultimi 5 anni è caduto in disgrazia, e quindi naturalmente aveva un gruppo di segretari, di persone, fra cui anche Hobbes, che hanno tradotto anche l'opera sua maggiore, il De Augmenti Scienziarum, insieme a Francis Bacon, insomma. Quindi ci furono due traduzioni latine, le ricordo per questo motivo, perché dal titolo di queste due traduzioni latine vengono poi fuori le due interpretazioni sostanzialmente degli interpreti successivi della Nuova Atlantide, cioè nel senso che nel titolo latino a volte c'è proprio il riferimento alla Nuova Atlantide, alla prima traduzione da Novus Atlas, cioè il nuovo mondo. Quindi si perde il riferimento all'Atlantide platonica, al mondo scomparso, eccetera, e quindi il legame anche in qualche modo con l'utopia di Moro, e invece il riferimento preciso e puntuale al nuovo mondo, agli uomini moderni, alla filosofia nuova, al nuovo metodo, al nuovo, tutto quel nuovo che, a differenza delle altre utopie di cui prima ha parlato Germana, in qualche modo questa di Bacon verrà, diciamo, realizzata, vedremo in che modo, attraverso la Royal Society. La Royal Society è la trascrizione moderna e scientifica della Casa di Salomone della Nuova Atlantide. Questo è un dato, diciamo, filologico iniziale. Nel 1643 la Nuova Atlantide, qui nasce il filone a cui si riferiva anche, devo dire, mi sono dimenticata dei ringraziamenti eccetera, ma sono veramente felice di essere qui, perché intanto ci sono stata tante volte, perché fa parte del mio passato, della mia utopia, e poi perché trovo estremamente interessante cercare, appunto, di rendere visibili, importanti, recuperare le biblioteche attraverso queste, perché credo che comunque forse non è in questo momento il momento più importante, ma prima o poi le cose serie, come diceva Francis Bacon, rimangono a galla, e quelle che non valgono niente invece cadono. Comunque dicevo, appunto, che come tu avevi accennato all'inizio, no? Dice, non c'è passato, non c'è futuro. Ecco, questa tradizione per cui la Nuova Atlantide viene immessa di autorità, e già Germana ha detto che la città del Sole già ci sta un po' con l'utopia, la città del Sole, si deve al Mercurius Britannicus, che voi avete qui, cioè al Mundus Altere Ditem, in cui, dico, Hall mette tra l'altro queste tre utopie come tre utopie che poi un certo tipo di tradizione storiografica ha sentito come all'origine delle utopie, poi le divide, quella etica eccetera, quella di Campanella sociale eccetera, quella scientifica, quella di Bacone e così via. fra l'altro significativamente, e questo non dico che non sia vero, cioè dico, affrontando la nuova Atlantide probabilmente è una forzatura, però è senz'altro vero, perché anche questa è storia che l'inizio di una tradizione, dico, è significativa, nonostante tutto questa tradizione è arrivata fino ai giorni nostri, e appunto in questo senso si parla, quando per esempio l'introduzione che Cacciari ha fatto proprio alla traduzione, all'ultima traduzione italiana della Nuova Atlantide, è tutta sulla tecnica, sulla scienza, il potere, eccetera, cioè tutto in questa tradizione, per cui nasce da Moro e arriva fino. Su questo, naturalmente, dal punto di vista filologico ho delle incertezze, poi vedremo perché, nel senso che mentre in Moro, come ha detto la Germana, ha chiarito in maniera magistrale, cioè c'è la scoperta del nome, no? La voluta scoperta di un nome nuovo, il non luogo, proprio perché forse anche lui, il Lord Cancellieri, si trovava a proiettare. Utopia, per esempio, in Bacon non esiste il termine, cioè lui in realtà non voleva fare un'utopia, perché questo pensava di descrivere, come aveva già fatto e pubblicato nel 1608, attraverso la favola, nel senso la ripresa del mito platonico, eccetera, eccetera, cioè tutta una serie di temi che erano di filosofia naturale. O anche di filosofia non soltanto naturale, cioè lui aveva già usato nel 1609 col De Sapientia Veterum il recupero dei miti antichi, che avevano la caratteristica di nascondere un'antica sapienza, questi miti antichi, perché? Perché era consapevole che il nuovo mondo era un mondo, o il nuovo metodo che poteva essere non capito, non complesso, comunque adesso ci ritorneremo. E quindi fondamentalmente lui usa il mito platonico, cioè la favola antica, con lo stesso valore che Platone ad essa aveva dato, cioè di decodificare ciò che non si può altrimenti capire, e quindi di riprendere nelle antiche favole, nell'antica religione, nell'antica sapienza, miti che potevano essere trascritti in termini di decodificazione scientifica. In questo senso si spiega, non c'è passato, perché il non c'è passato di Bacone è esattamente identico al fatto che per arrivare al nuovo metodo, cioè per andare oltre le colonne d'Ercole, quindi per acquisire esperienza, uno deve fare per prima cosa, come hanno detto tutti i filosofi moderni del Seicento, l'espurgatio mentis, quindi ciò che ho conosciuto, ciò che ho imparato a scuola, ciò che, di cui ho fatto esperienza, cioè la prima cosa da fare, non per disperderlo, ma per poterlo poi in qualche modo utilizzare attraverso un metodo in modo nuovo, io non devo prima fare l'espurgatio. Quindi l'espurgatio, se vogliamo in maniera metaforica, del passato, è un espurgatio necessario del metodo, di tutto il metodo della filosofia moderna. La prima cosa è, dico, Descartes nel discorso sul metodo, almeno una volta nella vita mi devo liberare di tutte le cose, eccetera. E la stessa cosa fa Bacon, cioè il primo momento del nuovo metodo è la liberazione dai pregiudizi, cioè la liberazione dalle idole, di qualsiasi tipo di pregiudizio, e quindi significa la liberazione dal passato, per poi poter fondare abimis, dopo aver distrutto tutto abimis fondamenti, il nuovo metodo, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso c'è questo. E allora questa casa di Salomone, insomma, che viene descritta, eccetera, per cui anche lì c'è il... Comunque ci ritorneremo. Dicevo, l'altro tema invece, l'altro titolo, secondo me forse più corretto, la Nuova Atlantide, con un riferimento in gran parte generico all'Atlantide di Bacone, a me convince di più, non soltanto perché il titolo è inglese e quindi il titolo voluto da Bacon, ma anche fondamentalmente perché Bacon ha sempre fatto questo: il nuovo metodo è il novum organum, cioè combatta Aristotele, distrugga Aristotele e faccia una cosa talmente importante come quella di Aristotele, che è novum, cioè moderna. Per acquisire la nuova conoscenza bisogna fare, fra le altre cose, un'istoria naturalis, come aveva fatto Plinio, però quella di Bacon è historia naturalis et experimentalis, cioè è la nuova storia. e quindi devo, avendo un modello estremamente importante, eccetera, eccetera, dico, rispetto al mito platonico, al mito quindi diciamo dell'epoca d'oro che va tutta ricostruita, dico, è l'Atlantide riscoperta, quindi nuova e quindi in qualche modo scientificamente realizzabile, insomma, grosso modo. Quindi questa distinzione che c'è soltanto nella traduzione, nelle varie traduzioni latine, nelle due soprattutto che si susseguono nel 600, e soprattutto nella traduzione francese, apre a queste due, strade, diciamo, di interpretazione. Allora, vediamo un attimo come si le... adesso ve lo salto, eccetera, la diffusione è dell'opera enorme, tant'è vero che addirittura sono molto divertenti, noi ci troviamo di fronte, soprattutto nella... un pochino prima della fondazione della Royal Society, ma anche qualche anno dopo, ha personaggi importantissimi, chimici, eccetera, eccetera, che la finiscono, perché è un'opera non terminata, la Nuova Atlantide, unfinished work, e quindi ci abbiamo di tutti i tipi, perché l'Europa, grazie a Dio, era molto più, insomma, il XVII secolo, il 1600 è importantissimo, e quindi è un fervore di cose, quindi ci abbiamo lo scienziato tutto serio, eccetera, che seriamente finisce la Nuova Atlantide, come dire, interpretando Bacone e portandola fino a termine. Poi ci abbiamo quello un pochino più mattocchio, Rosacrociano, eccetera, eccetera, che trasforma la città di Salomone, questa stupenda immagine, questa stupenda realizzazione di una società che si dedica tutto alla scienza, in che modo vedremo fra breve, che invece appunto la interpreta come la società di Rosacroce. Quindi, perché dobbiamo sempre tenere presente, secondo me, in questo senso, appunto, il Cinquecento è fondante, è fondativo, che c'è il nuovo metodo, c'è la nuova scienza, scoperte geografiche, si aprono i cieli, si abbattono le antiche credenze e le antiche certezze, naturalmente faticosamente, chi viene condannato, chi viene bruciato, chi viene, ma comunque, insomma, si abbattono più o meno, dico, come? Sì, certo, però lui ha fatto anche altre cose. Questo qui che ha fatto... Sì, certo, ma infatti lo dicevo in senso positivo. No, voglio dire, non era mica una cosa. Non era una cosa, cioè quelli che portano avanti, non è, c'è tutto quanto, e secondo me da tutto questo è importante, cioè perché nasce comunque la regione. E quindi... abbiamo appunto queste persone che finiscono la Nuova Atlantide, ed è interessante vedere in che modo la finiscono, eccetera, eccetera. Quello che appunto volevo ancora sottolineare, ne vorrei ancora sottolineare, ed è questo, lo salto, che no, questo qui è una cosa forse da sottolineare. Questa riproposizione come di un'utopia legata alla scienza, che è quella anche di Cacciari nell'introduzione, e soprattutto alla tecnica, in questo congiungendosi con il libro di Farrington, Bacone, filosofo dell'età industriale. E questa trasmissione del testo, questo tema legato alla trasmissione del testo, è certamente giustificata, cioè per cui dal punto di vista storiografico se ne può parlare, anche però se non è da sottovalutare, da un lato il termine dell'assenza del termine utopia, dall'altro è fondamentalmente il fatto che la scienza e la tecnica, e questa è forse secondo me la cosa più significativa della Nuova Atlantide, in Bacon non significa assolutamente utilitarismo come viene interpretato successivamente, perché lui intende per utilitarismo il bene dell'umanità, cioè dico quello che per Bacon è la scienza, è un nuovo orbe del sapere, cioè se voi avete presente il frontespizio del Novo Morgano, che viene appunto definito non a caso il frontespizio più famoso della storia della filosofia, sono le due colonne d'Ercole, no? Con il detto di Daniele, e multiple transibunt, e la scienza aumenterà, e poi plus ultra, contrapposto al non ultra. Cioè, dico, il non ultra, le colonne d'Ercole erano un limite invalicabile, poter pensare di valicare le colonne d'Ercole significava fare un atto di hubris. Ricordo a tutti naturalmente il verso di Dante, dico, per cui appunto se uno supera quello poi dico, finisce. E questo è sempre stato una tradizione, no? Infatti mi ha sempre molto colpito e impressionato, non so se lo ricordate, ma in uno dei libri, dei capitoli più belli di Primo Levi, su Se questo è un uomo, quando loro sono proprio ridotti appunto Se questo è un uomo, eccetera, però lui tenta disperatamente, una volta che andavano a prendere il rancio, tenta disperatamente di dire a Piccolo, che oltretutto non sapeva, quindi di dirglielo in francese perché non si capivano, eccetera, eccetera, di dirgli il verso di Dante, getta in me nel grande mare aperto, eccetera, finché il mondo fu sopra noi richiuso. E questo era il senso, cioè Primo Levi dice, se avessi potuto dire questo, farglielo capire, significava la contrapposizione di Se questo era il limite invalicabile fra il non essere uomo e l'essere uomo. Quindi ha sempre avuto questo valore. Naturalmente Bacon questo lo considera il limite di tutte le filosofie antiche, non parliamo di Aristotele, di Platone, eccetera, eccetera, ma anche delle filosofie rinascimentali. La colpa che lui ascrive a Telesio, Campanella, eccetera, è quello di essere contemplativi, cioè di aver contemplato la natura. La natura non si può soltanto contemplarla, la natura è necessario lavorare su essa natura, con metodo naturalmente, e quindi per far questo lui fa due cose fondamentali, cioè da un lato bisogna andare oltre le colonne d'Ercole e quindi acquisire esperienza. Saremo dei piccoli nani, ma siamo dei nani sulle spalle dei giganti e quindi vediamo di più. Da un lato quindi quello di acquisire esperienza, dall'altro è uno dei primi, anzi forse il primo, che mette sullo stesso identico piano le arti liberali e le arti meccaniche. Cioè, togliendo la causa finale, quindi la provvidenza, dando per scontato che Dio abbia creato il mondo, quindi Dio l'ha creato, dopodiché l'uomo è il ministro interprete di un mondo creato da Dio, ma non ce ne importa niente, la differenza tra le cose naturali e le cose meccaniche è quella che l'uomo può creare le cose meccaniche, quindi può cambiare le specie, può fare... E allora, da questo punto di vista... Nuova Atlantide noi ci abbiamo esattamente questo. Adesso io questo ve lo salto, ma queste piccole pagine su quello che si può fare in questa isola stupenda, si ritrovo, è questa, no? Cioè la Nuova Atlantide sostanzialmente presenta una natura ricostruita, e questo, che poi verrà realizzata dalla Royal Society, perché Bacon poi aveva detto che non è che un uomo solo può fare questo, giustamente almeno di questo era consapevole, ci vogliono secoli, cioè quello che noi sappiamo è che certe cose non le sappiamo. Quindi una natura ricostruita nella ricchezza complessa della natura, ma anche con una forza di immaginazione che va oltre di essa, in cui l'uomo possa realizzare tutte le sue potenzialità, quelle già conosciute e quelle non ancora conosciute, essendo consapevole di non... qui porta avanti Bacon una tradizione che è appunto rinascimentale, cioè che inizia dalla metà del Cinquecento, in cui quando si comincia la critica al miracolo, si dice appunto, noi consideriamo miracolo ciò di cui non sappiamo la causalità naturale, e quindi diciamo che è un miracolo. Se sapessimo la causalità naturale, una cosa che ci sembra un miracolo non sarà più un miracolo. Quindi non c'è più niente di occulto nella natura. Ci sono soltanto cose che ancora non conosciamo. Ci sono, no. E quindi che cosa si deve fare? In conformità alle leggi della natura, che quelle stesse leggi che governano lo stato perfetto, come diceva appunto, no? Significa appunto nei limiti del regno omnis, in qualche modo costruire tutte le cose artificiali. E allora che cosa si fa in queste cose artificiali? Tutto. Cioè i tre che si occupavano, per esempio, dei fenomeni naturali che studiavano questi nella casa di Salomone, creavano tuoni, lampe, cascate, raffreddavano l'aria. Ricordiamoci che il periodo in cui tutta la corte inglese si prese la broncopolmonite, perché tutti quanti con tutti i loro arnesi da cose eccetera eccetera andarono nel battiscafo per vedere se funzionava il fatto di poter andare nel battiscafo sul Tamigi. Treber fece questo esperimento, tutta la corte tutta bardata di cose eccetera di merletti, e che lo stesso Bacon in qualche modo si prese una broncopolmonite e ne morì, fra l'altro, perché avendo visto che c'era la neve eccetera, per vedere se tornava il suo esperimento che il freddo avrebbe mantenuto e non avrebbe impedito che le carni potessero in qualche modo andare a male, scese dalla carrozza, prese una gallina, se la fece dare dal contadino, la sgozzò e la mise sotto la neve per poi ritornare a vedere, cose che non fece perché prese la broncopolmonite e morì, no? Quindi rendiamoci conto anche del momento nel quale viviamo. Cioè queste cose qui sono cose che sono le scoperte scientifiche, le cose che vengono dall'America, tutto. Tra l'altro, appunto, tu dicevi giustamente che noi a volte pensiamo di scoprire l'acqua così calda perché già nota a tutti, parlavi dell'eutanasia. Dico, Francis Bacon è stato condannato perché ha portato avanti il discorso dell'eutanasia dalla Santa Inquisizione, uno dei passi condannati è quello del Dagomentis di Bacon, perché lui invece era un propugnatore proprio dell'eutanasia e ha usato questo nome riferendosi fra l'altro a Epicuro, che si era fatto ubriacare prima di morire, per cui avendo come modello Epicuro, quindi naturalmente condanna assoluta. Però c'è questo. Quindi quelli che poi c'erano le incubazioni artificiali in questa casa di Salomone, si creavano uova senza galline, no? Le illusioni ottiche, ma soprattutto si costruivano automi, il grande mito degli automi del XVII secolo, compreso Cartesio, Comenio, eccetera, eccetera, e una specie di sottomarino, appunto, sottomarino che poi era molto. Quindi il senso della adesso qui ci sarebbero molte altre cose da dire, il senso della nuova Atlantide è un senso che non a caso, pure secondo me, è stato deciso da Bacon e dal suo fedele segretario William Rowley, che poi eccetera eccetera, di metterlo, di pubblicarlo insieme alla Silva Silvarum, che è l'ultima opera di Bacon, no? Lui ha realizzato in grandissima parte alcune cose, deve ancora dare in qualche modo un esempio di esperimenti che possono essere ripetuti eccetera eccetera, lo dà 1000 esperimenti e come le prefazione al lettore di questa Silva Silvarum c'è la nuova Atlantide, un po' come la città del sole rispetto alla... Ecco, allora poi è evidente che come tutte le cose importanti, e questo è il bello appunto della storia secondo me, come tutte le cose importanti e come tutti i grandi classici, si possono leggere in tanti modi. E quindi, voglio dire, anche una linea di lettura che lo pone all'inizio e successivamente all'interno della linea interpretativa delle utopie alla sua giustificazione e al suo senso. Certo, riconducendolo filologicamente a Bacon, io la sento più come un suo mito. Lui, quando ha scritto il Sapientia Veturum, ha usato miti antichi e li ha, come dire, interpretati in modo nuovo. Con la nuova Atlantide, secondo me per questo non l'ha finita, lui non si ritrovava con un mito antico, era un mito che lui stava costruendo, la stava costruendo come favola, come modello esempio di quello che molto dopo la sua morte sarà appunto realizzato dalla Royal Society.